Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Si fa presto a dire idrogeno, che sia un vettore energetico straordinario nessuno lo mette in dubbio, ma anche se sembra paradossale, in realtà l'idrogeno pone problemi proprio di sostenibilità energetica. Produrlo dai fossili non risolve il problema, mentre produrlo dall'acqua richiede un consumo elevato di energia. Circa il 30% di questa energia viene poi dispersa. Anche il trasporto e l'immagazzinamento dell'idrogeno non sono facili, perché un atomo piccolissimo e molto sfuggente. Ma c'è uno studio apparso su ACS Nano che apre una finestra davvero insperata e anche sorprendente. Un processo totalmente nuovo per produrre idrogeno dall'acqua, in pratica è un processo catalitico, diciamo così, per chi mastica un minimo di chimica, che risolve insieme anche il problema dell'immagazzinamento. Lo studio è di un team internazionale composto da Università di Anyang, Università Autonoma di Madrid, Università degli Urali, Sincrotrone di Trieste, Università di Padova e di Milano Bicocca, c'è poi l'Istituto Sistemi Complessi del CNR e infine c'è l'Università della Calabria, che è la capofila di questa ricerca, coordinata da un suo ricercatore, Antonio Politano. Buonasera Politano. Buonasera. Allora, siamo di fronte a un nuovo processo per produrre idrogeno dall'acqua, quindi qualcosa di potenzialmente molto importante. Tutto comincia con un materiale che avete messo a punto facendo uso del grafene, che va di gran moda, tutti lo stanno studiando e evidentemente c'è anche qualche buon motivo. Proviamo a spiegare questo materiale, questo processo. Siamo partiti da un supporto di un centimetro quadrato di nickel cristallino e abbiamo cresciuto del grafene su di esso. Grafene, che lo ricordiamo, è un materiale sottilissimo formato da un solo strato di atomi di carbonio. Sì, e questo campione è stato dosato con acqua. Cioè gli avete aggiunto acqua, quindi sì? Sì, vapore di acqua a temperatura ambiente. E l'acqua intercala nel grafene. Cioè che vuol dire che si infila tra le maglie? Sì, attraverso il grafene. E nello spazio confinato tra il grafene e il metallo avvengono delle reazioni che altrimenti non sarebbero consentite. In particolare la maggior parte delle molecole d'acqua non dissolvono. Va avanti per la sua strada e ok, non succede niente. Ma ce n'è una bella parte. Il 20% circa che si decompongono in gruppi OH, gruppi idrossilici, che rimangono fissati al metallo, e poi c'è idrogeno che si lega in parte al grafene e in parte al metallo. E a questo punto, quindi diciamo così, che l'acqua si è spaccata in due, ma voi non avete ancora l'idrogeno disponibile. A questo punto bisogna fare un ulteriore passo per avere veramente l'idrogeno, no? Qual è questo passo mancante? Beh, a questo punto c'è idrogeno immagazzinato a temperatura ambiente nel foglio di grafene, con delle prestazioni di immagazzinamento che sono già competitive in questa prima implementazione con i materiali utilizzati attualmente nella tecnologia dell'idrogeno. Dell'immagazzinamento dell'idrogeno. Ecco, sì. E come lo tirate fuori? Riscaldando a una temperatura tutto sommato blanda, a soltanto 130 gradi, gli atomi di idrogeno si ricombinano in molecole di idrogeno che vengono rilasciate, e quindi si può ottenere H2, quindi molecole di idrogeno partendo da acqua. Un metodo sicuro e pulito. È un processo che produce quindi idrogeno a partire dall'acqua solo somministrando calore, tra l'altro a temperature diciamo abbastanza basse, che spesso sono le temperature dei cosiddetti cascami termici, no? Cioè dei residui termici di altri processi industriali. E quindi siamo di fronte a qualcosa, alla proof of concept, diciamo così, di un processo che, visto così, potrebbe veramente diventare una pietra miliare del settore energetico. Diciamo, per chiarire, c'è ancora un bel po' da fare, ecco, prima di passare a una possibile applicazione pratica. Quali sono i problemi da superare? Questa è una prova di laboratorio che è stata ottenuta in condizioni sperimentali di pressione che sono un milione di miliardi di volte inferiore rispetto alla pressione atmosferica. Quindi, per esempio, qui ci sono delle condizioni di vuoto spintissimo, sostanzialmente. Sì, ultra alto vuoto. Che non sono una roba adatta a un'automobile, ecco, per capirsi. Quindi, primo problema è questo qui. Sì, Per fare ciò bisognerà estendere ancora di più la collaborazione, introducendo altri team, partner accademici e industriali, per superare questa barriera di pressione. Cioè bisogna riuscire a far fare questo processo anche a pressioni atmosferiche, questo è il punto? Sì, okay. E poi abbiamo lavorato con un campione di 1 cm², quindi attualmente siamo impegnati nello studio della produzione e dello stoccaggio di idrogeno in sistemi nanostrutturati di grafene, che potrebbero consentire di ottenere prestazioni superiori sia nell'immagazzinamento ma anche nella produzione. Senta, che reazione ha suscitato la pubblicazione di questo articolo? Siamo stati contattati da tante piccole e medie industrie, da tanti gruppi accademici, provenienti non solo dall'Italia ma anche dal sud-est asiatico e dall'estremo oriente, quindi il clamore è stato internazionale. C'è stato, va bene, allora fateci sapere come andate avanti, bocca al lupo, grazie ancora Antonio Politano. Buonasera. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.